Io vorrei ricordare che fra gli altri progetti, noi in particolar modo in quanto IABASS all'interno del Rosova Calling, stiamo appoggiando un progetto che si chiama Rosova Playground, che è un progetto che consiste nella costruzione di alcuni parchi a disposizione per bambini e donne a Suruçu, che è la città gemella di Kobane che si trova nel confine turco. E per quanto riguarda appunto questo progetto, noi logicamente e cerchiamo degli strumenti per finanziare il più possibile la costruzione di questi parchi. E al banchetto troverete tutte le informazioni relative appunto a questi progetti. Ed ecco, ora insomma è arrivato il momento fatidico delle domande dal pubblico. Quindi immagino che ci siano tante curiosità, io personalmente ne avrei tantissime, ma insomma. Quello che vi chiedo è a chiunque di fare delle domande abbastanza brevi e concise, sia per la traduzione e sia per permettere a più persone possibili di fare delle domande. Quindi non siate timidi, il microfono aperto. Volevo fare una domanda io, siccome siamo stati, anche col mio amico qua, siamo stati giù per le lezioni. Io sono stato giù un po' di più. E per le lezioni c'è stata questa grande euforia di popolo, no? Per le DP. E volevo sapere un po' adesso come sta andando avanti, come procede la strada delle DP in Parlamento. Perché è una cosa molto importante. Loro vogliono che rispondo io, perché è una cosa di North Kurdistan. Sicuramente 7 giugno è successo quella elezione legislativa per Camera dei Deputati in Turchia. È la prima volta anche con coalizione abbastanza largo siamo partecipati come partito. Prima di questa elezione, altre elezioni sempre come indipendenti individuali partecipavamo e dopo avevamo qualche gruppi. Invece questa volta, questo anche è un progetto presidente Öcalan, perché secondo lui noi da solo come curdi in Turchia non è possibile che possiamo trasformare il paese verso la democrazia, perché Turchia è un paese molto grande, 76 milioni di abitanti, diciamo 21-22 milioni sono curdi, però altre sono diverse la realtà. E allora per trasformare un paese così grande sicuramente serviva anche una grande coalizione e partecipazione. Lui subito ha chiesto a tutti i compagni in Nord, prima hanno creato un congresso i popoli, un congresso democratico i popoli in Turchia, 3-4 anni fa, e dopo loro hanno iniziato a lavorare, finalmente è uscito fuori, diciamo, quello partito HDP. Con tutti la realtà in Turchia, minoranza, religiosi, movimenti le donne, movimenti sociali. E 7 giugno abbiamo superato sia sbarramento 10%, anche non è solo questo, abbiamo anche bloccato il partito integralista che volevano, anche loro hanno un progetto, volevano trasformare il paese verso islamico, diciamo. Specialmente il presidente Erdogan voleva anche cambiare proprio il regime che verso la sistema presidenziale. Tutta la propaganda del suo partito, anche lui sa anche un presidente del paese, però ha fatto una campagna elettorale per partito AKP. Normalmente, secondo legge costituzionale, non doveva fare così, perché lui è presidente del paese. Per esempio, prima era Napolitano qui, io non ho visto che lui fa una manifestazione, una riunione per chiedere agli italiani per favore votate per PD. Però Erdogan ha fatto questa cosa. Tantissime città direttamente ha chiesto questa cosa, perché lui voleva cambiare il regime, diventerà un presidente del paese come Obama, Holland. Però HDP ha anche bloccato questa cosa, perché loro non potevano avere la maggioranza. Il secondo punto, anche non potevano da solo governare, perché per governare da solo almeno 276 deputati servono in Turchia. Loro hanno preso 258. Adesso per forza loro devono creare una coalizione con qualche partito. Per questo motivo purtroppo sono molto aggressivi. È quello massacro di Kobani, io personalmente vedo così una rivincita di elezione 7 giugno. Adesso non è forte questo partito, anche presidente del paese, come prima 7 giugno. Secondo noi adesso non è solo in Turchia, ma anche il Comitato Europeo deve iniziare a cambiare la sua politica verso Turchia, perché sempre loro hanno appoggiato Turchia con tutta quella politica sporca che faceva contro i curdi. Adesso i curdi hanno preso più 13% voti in Turchia, hanno 80 deputati adesso con coalizione. Un'altra parte, sia Kobani, sia Tlabiat, Ain Lissa, quelle zone, compagni di Rojava, adesso hanno grande parte abolito, adesso sotto controllo di compagni Rojava, che hanno unito due cantoni adesso. Per esempio, Kobani ha bisogno di quel corridoio umanitario, però non è come un mese fa, due mesi fa, perché già in cantone Gezire ha iniziato a portare lì il petrolio, le cose per la vita quotidiana, diciamo, che servono. E allora, fra un mese, i curdi hanno vinto due volte. La politica Turchia, la politica Erdogan, sempre crollato, perché sicuramente sua idea, sua politica non è una politica per portare pace in Medio Oriente, sempre fa la politica sulla setta sunnita, che secondo lui Siria deve diventare un paese sunnita. I sunniti devono direttamente governare Siria, e così lui può sentire sicuro che tanto lui c'è un paese islamico integralista come Turchia. Però il progetto di presidente autonomia democratica di Rojava ha bloccato anche questo, perché adesso tantissime diverse realtà chiedono americani, anche Turchia, tanti paesi, se vogliamo creare un paese democratico in Siria, possiamo prendere come esempio il progetto autonomia democratica di Rojava per tutti i popoli che vivono in Siria. Secondo noi il punto che adesso camminando non è male, però ancora anche non è molto sicuro, perché abbiamo visto due giorni come è successo in Kobani, sempre abbiamo detto c'è quello pericolo. E allora, prima linea, sempre abbiamo bisogno un appoggio della società civile su livello internazionalismo. Il secondo sicuramente anche piano piano qualche stati democratici anche devono appoggiare sia Rojava sia la politica curdi che adesso facendo in Turchia. Sappiamo che c'è una grande volontà da parte dei profughi curdi di voler tornare a Kobane. Volevamo sapere qual è. Sappiamo che c'è una grande volontà da parte dei profughi curdi di voler tornare a Kobane. Volevamo sapere qual era la situazione del rimpatrio. Specialmente abbiamo visto che c'era la costruzione di un campo profughi e volevamo sapere se era stato completato e se ci sono case abitabili. Grazie. ما لکوبانی چارسی دو پنج هزار حتی پنج هزار انسان جیان دکر بریشه. Prima della guerra a Kobane vivevano circa 450.000 circa 100.000 persone. Nivil Bosnia, diviso il Gondom. Metà in città di Kobane, l'altra metà erano nel parte del distretto di Kobane, nei villaggi di Kobane. Quando sono in Kobane سدی به اینجا حتی هفته و مال و وطن خراب کرد. Nel periodo della battaglia, della guerra, dal 50% 70% della città di Kobane e la zona di Kobane è stata distrutta. Gondzi sedi Ponzde. Invece i villaggi, il 15% sono stati distrutti. نه اما کریوریا کانتون کوبانی خواتی می شاره داری گر به فرد دست مده های همو آلیت می کنم به خوات دکر ذات داعش روخان آر لسر کوبانی قد کرو بو الکتریک قد کرو بو به دیوی انجیان زحمت بو لی ام گر به فرد دست مده های ام خواتی ما نها بردوام دیاریده Noi come amministrazione di Kobane con la poca possibilità, con la poca materiale, abbiamo provato e stiamo ancora provando a ricostruire questa zona perché Daesh e ISIS quando ha fatto attentativo nel periodo della guerra, dell'attacco, ha tolto sia l'acqua, sia corrente e tutte le cose primarie, i bisogni primari. E noi in questo modo costretto abbiamo cercato ancora lavorare per la società. Jbuk khalk bezibre fermat pishti rezgar karna Kobani fermama hazir kar niski 4 mahan ma nam be faradda. Dopo liberazione di Kobani la cosa che come amministrazione di Kobani la cosa che prima abbiamo fatto abbiamo costruito circa 4 forni, panetterie. Da in quel giorno in poi abbiamo fatto il pane alla società del popolo che è rientrato a Kobane senza chiedere il denaro, quindi era una cosa pubblica. Ma da stato che siamo esirati perché ma da stato ho anche sbucco bistona vicino che conobbe e giane fa perdono perché abbiamo sostenuto anche le persone che vogliono fare agricoltura per coltivare la terra e per ritornare alla vita quotidiana. Kampat ma c'è che le Rojava i Kobani decidu benge chadri vakke. Abbiamo fatto anche un tendapoli e un tendapole che ci sono circa 250 tende nell'occidente del Kobani. Kampa ki dinji gunde ki Svizzera. C'è un altro campo per sempre quelli ritornati che è stata fatta a parte delle organizzazioni civili della Svizzera. No, se di 25.000 civili bulgariani nel bazaro bunda. Ora posso dire circa 125.000 civili sono rientrati a Kobane. Alcuni sono rimasti in città dove possono abitarla, alcuni sono andati ai villaggi e alcuni sono spostati dove ci sono quei campi che avevamo parlato. Come sapete anche voi, fra poco tempo arriva inverno e sarà molto difficile questa situazione. جبرويجي تم خاصتا كما تم بانغوازيما ك دولات اوروبا او تايبت انها ايطاليا نه دبين هالين افاريدا هالين شارداريدا هالين پروردهدا تندرستيدا هالين پروژه ذاتن نه پروژه جمارا هاتن پیشکش کرن و پروژه جبوزارو کان پروژه تندرستي ماکادمیا جنه پروژه پرورده هنه کاتن یهوی ما هین بیتر جبوی جبستانی جبو که خلک مای مایی جی بزی بره گنده خواه و باجه. E noi siamo ora molto preoccupati perché con i materiali a mano noi non riusciamo a salvare e proteggere questi civili che sono rientrati, però, perché ci sono anche altri tanti che stanno aspettando per rientrare a Kobane. Perciò nel periodo dei nostri incontri abbiamo fatto richieste ai governatori, persone, sindaci, gruppi, organizzazioni, anche ai popoli, sosteneteci con l'amministrazione di Kobane non per ruolo dell'amministrazione, per questi civili che arriva inverno e noi siamo proprio bloccati perché non possiamo farla. E noi dobbiamo creare insieme il Kobane per un futuro bello per i bambini della zona che sono rimasti orfani. Intanto ringrazio veramente chi ha organizzato, perché è una questione veramente grandissima. Io volevo sapere, in Italia c'è una discreta censura su come vanno le cose nel Rojavano, però ho sentito che alla liberazione di Kobane, l'ultima che c'è stata, adesso, hanno partecipato parlando di palestinesi e curdi insieme. Allora volevo sapere questa alleanza, più o meno la televisione ha detto così, come è nata, come funziona, soprattutto ad esempio se ci sono anche le donne palestinesi, non lo so, volevo sapere come funziona questa cosa. Grazie. Bu veno şpa orti de gele binde sana de gele kuz bu azad yapa o nasla mafata kuşin dikin hana. Questo punto per il popolo palestina e il popolo curdo posso dire che ci sono due popoli sotto oppressione, che i loro diritti sono stati tolti. Jbun ayna de eşin khodeji digijne hafdu, u de ke khoshya khodeji digijne hafdu. A quel punto i popoli sotto oppressione, quando c'è un dolore, si sentono stesso e quando c'è una vittoria sentono lo stesso. U shkoma berizi gutu votre hasnenjen tunde rojava e kurdistanda dengi herjneki temsilki mutlaka dengi var temsilki. Come YPG, quello che abbiamo detto già prima, noi come donne, donne combattenti dell'YPG, noi anche siamo portavoce del popolo palestina, non solo portavoce del popolo curdo. Io lo credo che quella notizia che avete letto, avete visto, è su base di quello, non c'è un altro motivo di dirla, che due popoli sotto pressione e con emozione e sentimenti delle donne si sentono tutti e due popoli sotto oppressione, sono stessi, sono uguali. Io non ho letto questo articolo, non l'ho visto, però io lo credo in questo punto che hanno scritto. Chi è che si prende un colpo oppure ha dolore sente meglio quello che altro che sotto pressione quello che ha un altro dolore. گله کی بگیش نه آزادی خواب نه سما خواه آزاد بجین سر آخا خواه پیروز وقت کج هر گله کی گوته کوشین کج بو بنا از دخوازم چطه کی جدا ترش بو بی مسئله تز بجیم وقت بلگی دستیم خودشین. Io non ho tanto informazione su questa notizia, quindi non posso, posso dire tante cose, solo posso dirlo che come tutti gli altri popoli, anche il popolo di Palestina ha quel diritto di avere una indipendenza e avere la libertà per il suo popolo in modo democratico e la giusta. Posso dire solo queste parole su questa domanda. Grazie. Perché loro sono un po' stanchi e poi dopo ci sarà la possibilità per tutte le donne di entrare qui al TPO e fare una chiacchiera da sole con Nasrin, che si renderà disponibile per ulteriori domande. Gotinin koi وقت بچه داویا جوینم بخواد من سر زمان دروش وقتی مل بدریم ما بچه که دیگر بزی برم جوای کردستانه. Come l'ultima parola lo posso dirvi che da due dopo due giorni noi rientriamo a Koba a Rojava. یک آرمان جمعی کو ام هات نه بدری مطلقا جبو شورش a Rojava ام دستکی کی بگیرن. Primo nostro aspetto quando si siamo arrivati qua a avere un sostenimento, una solidarietà per la rivoluzione di Rojava. Tabi as bawarin chti kwam pehatin ame we pish gie bigrin am ve bawli didin. Quello che abbiamo visto mentre incontri quelle anche panorama di oggi che abbiamo riuscito a averlo un sostenimento, un collaborazione anche. O wat jine kiji ma khast am tangi jine Rojava بگین ویدریجی و امش دنیای را بیجن هرچی قاسی ریخستنکی وکه داشه که ایرو تهدیده که سر مروباتیه دیده دیار گرن فقط بلا دنیا جی بزان به که ایرو الهمبری جنن روژاوا شکستنه و ایر جی هلوستا جنن جیهان توایی افادت که Come parte della rivoluzione io posso dire qui dall'Italia a tutto il mondo il Daesh, ISIS che diceva io non arrendo, non perdo, però ha perso davanti contro le donne combattenti degli YPG. اوه سوزه ددنه گلی گلی مروغاتیه وک جن و از بارم یعنی تحضوره حوال جن ده بلکی امسال نعبواجی داخبن فقط ام وک جن وی سوزه جی ددن امه هر تم گارانتیه آوه کرنا براتیه گلان ده امه هر تم بنا گارانتیه آوه کرنا دموقراسیتی آشیتی و آزادیه بن Noi come con la battaglia, con la resistenza che abbiamo fatto là, non è una battaglia, una resistenza solo donne di là. Abbiamo fatto una resistenza, una battaglia a nome di tutte le donne del mondo. Soprattutto quelle che lo dico, con la resistenza lì, io sto parlando anche come un portavoce delle donne qua, sono presenti qua in questa serata. Noi le donne combattenti degli EPG, quelli resistenti, quelli in lotta, noi non fermeremo mai finché c'è la questa che c'è sarà minaccia, noi resisteremo e noi fino alla fine vinceremo anche. Questo lo sappiamo e vi giuriamo anche. حوالی زم جعاز نبین امید بنا گارانتی هم پرسنا جیان آنا و هم در رفاهیت آوال جیان بخوشی و امید وک هفی امید بپرس امید وک گوانه نکن پرستا این سلطان این ماسکی Noi saremo la sicurezza per la fratellanza dei popoli, noi saremo una sicurezza per la pace a tutto il mondo e nostri compagni maschi non vi offendete, non faremo come voi, porteremo uguaglianza anche tra di voi e voi. گنبونا دلین جنن یه پجه همون دوستن خواهی حاضر امانه حمیز دکن و نسلاف دکن و امسوز دن هر تم تکوشینا ما یه خود با و یه پیش با و بلا داشت بزان با ایرو جل هم بری مینا هنه بلا اوجی دوی باری دا با و یه هر تم شکال نبجی و سپاس شبو یو Io con tutto il mio cuore, con tutto il calore della lotta, vi lo dico che noi continueremo e vi saluto e vi abbraccio. Il Daesh, ISIS, è nemico dei diritti umani, nemico dei popoli, nemico della democrazia, deve sapersi e che già saputa, noi come donne siamo a fronte di loro e combatteremo contro di loro e resisteremo contro di loro, perché noi siamo sicurezza dei popoli. Noi siamo sicurezza dei diritti, siamo sicurezza della pace del mondo. Grazie, grazie mille. بالين بيدر سلوت كان تشتيك هفال سترينجو طبي ام جي تابي دبل في هفال كي مدقو ام تشب كان خودي ام ام زلام دانا لي براز عني بن كو ام جي هاف كارن كوبا ما في كو دقي دس لي وان ام جي بوار هاف كارن جبر وي ام دستاك ددن يو condiviso quelli ai detti di compagni di Nestri, però come un nostro compagno stava dicendo che non è colpa nostra, abbiamo nato così maschi, non ce l'abbiamo da fare altro, perciò noi sappiamo che questa libertà portano loro, nostre compagne, e questo dividiamo tra di noi, non è che sarà un potere come nostra. الكوباني انيا رجلا هذا سرخون وهذا جياه ابو 24 ساعه رانت كاتن اباتي واتيا جن مير هاف تمام دكن ب جن نابي وب مير جن c'è come posso dirvi un esempio quella uguaglianza della se anche parte della resistenza è la vita. C'era, ci sono ancora due compagni, uno Sorkin, Cia, che è maschio, è una donna, una maschio. Loro combattevano stesso campo insieme 24 ore su 24, senza dormire, senza mangiare, senza bere. E questa libertà è arrivata in questo modo, e questa è la libertà di tutti e tutte. جر بدن ام كيف خوش بون كون بدر حاضر بود ایلی ام كون 15 نهان ده 1015 اون در باس من کوبانی در باس من باجار برخوادان پاراویش دیده های امیل بند آوه بن اون اب جابی خواه ببینن جی ام روواهی و جی ام انیا جن ایکو ما فی جنی اسلاندی و ام سلاف دکن سور سپاس E io lo voglio finirla anche le mie ultime parole per il 15 settembre 2015 vi invitiamo, vi aspettiamo a Kobane, a vostra città che abbiamo riuscito a resistere insieme, abbiamo sceso in piazza, alcuni sono sul capo, alcuni in altra parte del mondo, erano concorre con Kobane proprio. In questo modo festeggiamo insieme e ringraziamo i nostri compagni degli EPG che hanno resistito, hanno portato la vittoria per Kobane. Vi saluto e ringrazio. Allora, innanzitutto un grazie mille ai nostri ospiti. E, insomma, quello che vogliamo dire davvero col cuore è che non siamo solo solidari, ma siamo soprattutto complici con quella che è la lotta per l'umanità.